Ben ritrovati in studio, io sono Martina e oggi siamo qui per presentarvi lo spettacolo L, il caotico viaggio di Leonardo da Vinci in Romagna, di cui appunto autore è Roberto Mercadini, con il quale ho il piacere di parlare in collegamento telefonico, quindi ecco, buon pomeriggio Roberto. Grazie, buon pomeriggio a voi. È un piacere, appunto, tra l'altro autore, appunto scrittore, ha scritto, appunto, interpreta tantissimi monologhi e ritorna a teatro portando appunto la storia di Leonardo da Vinci. Ti chiedo che cosa aspettarsi da questa serata, che ricordo sarà il 25 gennaio al Teatro Stignani, appunto alle ore 21. Sì, è il racconto di un episodio molto circoscritto della vita di Leonardo, l'occasione in cui Leonardo è venuto in Romagna. Per qualche mese lui è stato alla corte di Cesare Borgia, sì, che era il signore del Ducato di Romagna ed era il figlio del Papa. E quindi vediamo aggirarsi Leonardo per la Romagna, è stato anche a Imola ovviamente, perché ha disegnato quella bellissima mappa di Imola. Ed è una figura sfuggente Leonardo, famiglie cose senza concluderne nessuna, e vedremo una curiosità vorace, vediamo la capacità con cui si interessa delle cose apparentemente più insignificanti. È una lettura del personaggio che fa riflettere secondo me anche su di noi. Ok, quindi ecco una lettura anche diversa, no? Beh sì, perché spesso si celebra Leonardo come genio, ma in cosa consiste la sua genialità? Perché genio non vuol dire nulla. Io dico nel monologo, i geni non hanno un cervello diverso dagli altri, forse lo usano in modo diverso dagli altri. Nel caso di Leonardo la cosa eclatante è la sua capacità di interessarsi alle cose, la sua curiosità. E appunto ti chiedo poi un tuo parere personale, insomma in questo periodo ecco anche storico dove tutto è così veloce, ti chiedo perché andare a teatro e se può essere appunto un arricchimento, e tra l'altro se confermi anche tu che il teatro appunto è per tutti, quindi sfatare questo mito che il teatro rimane d'élite. Il teatro è per tutti e non solo è per tutti, ma è, se lo intendiamo nel modo più ampio, cioè come uno o più attori che raccontano una storia davanti a un pubblico, è una cosa che esiste in tutte le civiltà, in tutte le comunità, dal tempo delle caverne. Noi raccontiamo storie, in questo senso facciamo teatro. Sì, sì, la narrazione. Quindi io non penso che il teatro sia qualcosa per un tipo particolare di umanità. Il teatro è come la musica, no? La musica, sì, sì, per tutti, esatto. Tutti fanno musica, poi possono morire i generi musicali, no? Può darsi che a un certo punto non andrà più di moda il rap. Sì, sì, sì. Non vorrei scritta più musica sinfonica, ma non è che finisce la musica. E proprio su quest'onda ti voglio chiedere, ma tu hai anche un canale YouTube, ecco, dove pubblichi, sì, non dico quotidianamente, ma con cadenza appunto relativamente importante. E ti voglio chiedere, ma tu noti una differenza tra il pubblico dei social e il pubblico in teatro? Cioè tu ricevi un feedback? Beh sì, il teatro vuol dire fare qualcosa con altri. Io faccio monologhi, ma come dico spesso, il monologo si fa tutti insieme, sì, cioè se non ci fossero persone che mi ascoltano io non riuscirei a concentrarmi a fare il monologo. Il ritmo con cui racconto, il modo con cui racconto cambia anche in base alle risate, in base agli applausi, ma in base anche ai momenti di silenzio. Ma c'è un silenzio normale, che è quello dell'educazione del pubblico che ascolta, certo. C'è sempre un fruscio, qualcuno che cambia posizione sulla sedia, ha un piccolo colpo di tosse, e poi c'è in certi momenti di particolare tensione un silenzio che si intensifica, perché le persone proprio trattengono il fiato, si fermano, si bloccano, e quel silenzio lì per un attore fa rumore, è intenso come l'applauso, forse di più. Certo, capisci? Certo. E tra l'altro appunto ti voglio chiedere, ecco così, giusto per chiudere appunto questo intervento, ecco questa intervista, ti voglio chiedere, tu una comparsa in un podcast hai detto che le persone sono interessate a quello che appunto già conoscono, no? Quindi se dovessi fare un invito ai nostri radioascoltatori per venire a vederti il 25 gennaio appunto a teatro, che cosa diresti, ecco? Tutti conoscono Leonardo, no? Però se mi vengono ad ascoltare in quella sera penso che vedranno un Leonardo diverso, perché poi ci sono tante cose che noi conosciamo nel senso che le abbiamo sentite nominare, di cui in realtà non abbiamo approfondito, no? Consapevolezza, no? Sì. Sì, tu pensa alla Gioconda, tutti sanno cos'è la Gioconda, certo, tutti hanno visto la Gioconda, ma se tu fai di una persona gli dici, mi può parlare della Gioconda per favore, dica quello che vuole. Sì, sì, sì. Se uno non è uno storico dell'arte, un appassionato, non si dica niente. Ecco, ci sono tante cose così. Esatto. Che conosciamo, ma di cui nessuno sa nulla. E quelli per me sono ottimi soggetti per una narrazione.